Sezione 14 De Il Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Pierre. Il Decameron, parte prima, giornata prima di Giovanni Boccaccio. Nona novella. Il re di Cipri, da una donna di Guascogna trafitto, di cattivo, valoroso, diviene. Ad Elissa restava l'ultimo comandamento della reina, la quale, senza aspettarlo, tutta festevole, cominciò. Giovani donne, spesse volte già addivenne che quello che varie riprensioni e molte pene date ad alcuno non hanno potuto in lui adoperare, una parola, molte volte per accidente, nonché ex proposito, detta l'ha operato. Il che assai bene appare nella novella raccontata dalla Lauretta, ed io, ancora con un'altra assai breve, ve l'intendo dimostrare, perché con ciò sia cosa che le buone sempre possan giovare, con attento animo son da ricogliere, chi che desse sia il dicitore. Dico adunque che nei tempi del primo re di Cipri, dopo il conquisto fatto della Terra Santa da Cottifre di Buglione, avvenne che una gentil donna di Guascogna in pellegrinaggio andò al sepolcro, donde, tornando, in Cipri arrivata, da alcuni scellerati uomini villanamente fu oltraggiata, di che ella, senza alcuna consolazione dolendosi, pensò d'andarsene a richiamare al re. Ma detto le fu per alcuno che la fatica si perderebbe, perciò che egli era di sì rimessa vita e da sì poco bene, che non che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi, infinite con vituperevole viltà a lui fatte ne sosteneva, intanto che chiunque aveva cruccio alcuno, quello, con far di alcuna onto vergogna, sfogava. La qual cosa, udendo la donna, disperata della vendetta ad alcuna consolazione della sua noia, propose di voler mordere la miseria del detto re, ed andatesene piagnendo davanti a lui, disse: «Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che io attenda dell'ingiuria che m'è stata fatta, ma in soddisfacimento di quella ti priego che tu mi insegni come tu sofferi quelle le quali io intendo che ti son fatte, a ciò che da te apparando io possa pazientemente la mia comportare, la quale, sallo Dio, se io farlo potessi, volentieri te adoderei, poi così buono portatore ne sei». Il re, infino allora, stato tardo e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando dall'ingiuria fatta a questa donna, la quale agramente vendicò, rigidissimo persecutore divenne di ciascuno che contro l'onore della sua corona alcuna cosa commettesse da indi innanzi. Fine della sezione 14.